porta un altro inventario, smonto la baracca e via, cambio zona itinerario, il mio indirizzo è la follia, c'è un infelice ovunque vai, voglio allargare il giro dei clienti miei, io vendo desideri e speranze in confezione spray. Seguimi, io sono la notte, il mistero, l'ambiguità, io creo gli incontri, io sono la sorte, quell'attimo di vanità, incredibile se vuoi, seguimi e non ti pentirai, sono io la chiave dei tuoi problemi, guai. Vive senza di me, non è l'anima tua che io cerco, io sono solo più di te, nell'arco di una luna io farò di te un baro, un re, un re, sono io la chiave dei tuoi problemi, guarisco i tuoi mali, vedrai, mi vendo la grinta che non hai, ti do quello che il mondo distratto non ti dà, io mi vendo e va, a buon prezzo si sa, no, no, mi vendo, mi vendo la grinta che non hai, in cambio del tuo inferno. Quello che il mondo.